Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Sandro Lombardi legge Passaggio in India, di Edward Morgan Forster. Traduzione di Adriana Motti. Non vi preoccupate per me. Adela aveva parlato in modo più disinvolto e normale del solito. Chinandosi in mezzo ai suoi amici disse: «Sto molto meglio di prima. Non mi sento più svenire, me la caverò benissimo. E grazie, grazie a tutti, grazie, grazie della vostra bontà. Dovete gridare la propria gratitudine perché la salmodia e Smith e Smur continuava. Tenu che non è che lag gai. Tenu che non è लग गई. D'improvviso cessò. Fu come se la preghiera fosse stata esaudita e le reliquie esposte. «Chiedo scusa per il mio collega», disse Mr. Amritrao, provocando in tutti un certo stupore. «È amico intimo del nostro cliente e si è lasciato trasportare dai propri sentimenti». «Mr. Mahmud Ali dovrà scusarsi di persona», disse Mr. Das. «Naturalmente, signore». «Deve farlo», riprese Amritrao. «Ma abbiamo appreso solo in questo momento che Mrs. Moore sapeva qualcosa di importante e desiderava dirlo. Prima che potesse farlo, suo figlio l'ha allontanata in tutta fretta dal paese. Questo ha sconvolto Mr. Mahmud Ali, specie dopo il tentativo di intimidazione che è stato fatto contro l'unico altro testimone europeo della difesa, Mr. Fielding. Mahmud Ali non avrebbe detto nulla se Mrs. Moore non fosse stata dichiarata testimone dalla polizia». E tornò a sedersi. «Nel processo si sta introducendo un elemento estraneo», disse il magistrato. «Devo ripetere che come testimone Mrs. Moore non esiste. Né Mr. Amritrao, né voi, Mr. McBride, avete il diritto di far congetture su quanto avrebbe detto quella signora. Essa non è qui. E di conseguenza non può dire niente». «Bene, ritiro la mia osservazione», disse con aria stanca il sovrintendente. «L'avrei fatto da un quarto d'ora, se mi fosse stato possibile. Per me, Mrs. Moore, non ha la minima importanza». «La difesa l'ha già ritirata», disse da parte sua Amritrao. E con forense umorismo soggiunse: «Forse potrete convincere quei signori là fuori a ritirarla anche loro». «Smith e Smur! Smith e Smur! Smith e Smur!» Perché per la strada il ritornello aveva ripreso. «Temo che i miei poteri non siano così estesi», rispose Das con un sorriso. E così fu ristabilita la calma. E quando Adela fece la sua deposizione, l'atmosfera era più tranquilla di quanto fosse mai stata in tutto il corso del processo. Chi se ne intendeva non ne fu sorpreso. «Il buon indigeno non ha nessuna resistenza, prende fuoco per una cosa da nulla e quando arriva la crisi è bruciato. Non cerca che un'ingiustizia e l'aveva trovata nel supposto allontanamento di una vecchia signora. Ormai si sarebbe sentito meno vittima quando Aziz fosse stato deportato». Ma la crisi doveva ancora venire. Thank you. Adela si era sempre proposta di dire la verità, e nient'altro che la verità, e aveva fatto prove su prove come per un'impresa difficile. Difficile perché la sua disgrazia nella grotta era connessa, sia pure per un filo, con un'altra parte della sua vita, il fidanzamento con Ronnie. Aveva pensato all'amore un attimo prima di entrarvi. Aveva innocentemente domandato ad Aziz che cosa fosse il matrimonio, e ora si immaginava che proprio la sua domanda avesse scatenato in lui la malizia. Raccontare tutto questo sarebbe stato terribilmente penoso. Era l'unico punto che voleva tenere segreto. Era pronta a riferire particolari che avrebbero messo a disagio altre ragazze, ma non aveva il coraggio di accennare a questa storia del suo personale fallimento. E tremava di essere interrogata in pubblico per la paura di lasciarsi sfuggire qualcosa. Ma non appena si alzò per rispondere e udì il suono della propria voce, non ebbe più nemmeno questo timore. Una sensazione nuova e sconosciuta la proteggeva come una splendida armatura. Non pensava a quello che era successo e nemmeno ricordava nel modo consueto della memoria. Era di nuovo sui monti Marabar e di là, attraverso una specie di buio, parlava a Mr. McBride. Quel giorno fatale tornò in ogni suo particolare, ma ora lei ne faceva e al tempo stesso non ne faceva parte. E questa duplice relazione gli dava uno splendore indescrivibile. Perché quella gita le era parsa noiosa? Ora il sole tornò a levarsi, l'elefante aspettava, le pallide masse di roccia le ondeggiavano intorno, rivelandole la prima grotta. Entrò, e le pareti levigate specchiarono un fiammifero, tutto bello e significativo, anche se sul momento lei era stata cieca a ogni cosa. Le venivano rivolte domande, e a ciascuna lei trovava la risposta giusta. Sì, aveva notato la cisterna del pugnale, ma non ne conosceva il nome. Sì, Mrs. Moore si era sentita stanca dopo la prima grotta e si era seduta all'ombra di un grande macigno, accanto al fango secco. Dolcemente, la voce di lontano proseguiva, guidando lungo i sentieri della verità, e le folate della panca dietro di lei la sospingevano avanti. L'imputato e la guida vi portarono sul Cawadol senza che nessun altro fosse presente? Il monte dalla forma più incantevole di tutti. Sì. Mentre parlava, creò il Cawadol, vide le nicchie sulla curva di pietra e sentì il calore sferzarla in viso. E qualcosa la spinse a soggiungere: nessun altro era presente, che io sappia. Pareva che fossimo soli. Benissimo. A mezza costa c'è una sporgenza, o meglio, una specie di cengia accidentata, con molte grotte sparse. Sì, sì, so il posto di cui parlate. Siete entrata da sola in una di quelle grotte? Sì, sì, sì, proprio così. E l'imputato vi ha seguita. Ora l'abbiamo in pugno, fece il maggiore. Ma lei rimase zitta. Il tribunale, il luogo della domanda, aspettava la sua dichiarazione, ma lei non poteva farla, sinché Aziz non entrava nel luogo della risposta. «L'imputato vi ha seguita, non è così?» ripete lui col tono monotono con cui parlavano entrambi. Stavano usando fin dal principio parole già convenute, affinché questa parte della procedura non riservasse sorprese. «Potete concedermi mezzo minuto per rispondere a questa domanda, Mr. McBride?» «Ma certo!» La sua visione abbracciava parecchie grotte. Lei si vedeva in una di quelle, ma era anche all'esterno, e ne osservava l'entrata in attesa che passasse a Ziz. Non riusciva a situarlo. Era il dubbio che le era venuto spesso, ma solido e attraente, come le montagne. Non ne sono... Le parole erano più difficili che la visione. Non ne sono del tutto certa. Prego, disse il sovrintendente di polizia. Non posso essere certa. Non ho afferrato la risposta. Aveva l'aria spaventata, la bocca gli si chiuse di scatto. Voi siete su quella terrazza, o comunque vogliamo chiamarla, e siete entrata in una grotta. Io direi che l'imputato vi ha seguita. Lei crollò il capo. Che cosa intendete dire, per piacere? No, disse lei con voce piatta, incolore. Lievi clamori si levarono da vari punti dell'aula, ma nessuno ancora aveva capito che cosa stesse succedendo all'infuori di Fielding. Egli vide che lei stava per avere un collasso nervoso e che il suo amico era salvo. Come? Cosa state dicendo? Parlate più forte, per piacere! Il magistrato si protese. Temo di avere commesso un errore. Che specie di errore? Il dottore Ziz non mi ha mai seguita nella grotta. Il sovrintendente sbatté le carte sul tavolo, poi le riprese e disse con calma. Proseguiamo, Miss Quested. Vi leggerò le parole della deposizione che avete firmata 2 ore dopo nel mio bungalow. Scusatemi, Mr. McBride, ma non potete proseguire. Sto parlando io con la testimone, interruppe Mr. Das. E il pubblico abbia la compiacenza di tacere. Se si continua a parlare, faccio sgombrare l'aula. Miss Quested, rivolgete a me le vostre dichiarazioni. Sono io il magistrato che deve giudicare il caso. E rendetevi conto della loro estrema gravità. Ricordatevi che state parlando sotto giuramento, Miss Quested. Il dottor Aziz non mi ha mai... Nella mia veste di medico chiedo una sospensione, gridò il maggiore imbeccato da Tarton, e tutti gli inglesi si alzarono come un solo uomo, massicce figure bianche dietro le quali il piccolo magistrato rimase nascosto. Si alzarono anche gli indiani. In un attimo successero centinaia di cose, tanto che in seguito ognuno diede una versione diversa della catastrofe. «Ritirate l'accusa? Rispondetemi!» gridò il rappresentante della giustizia. La ragazza fu afferrata da qualcosa che non comprese e che l'aiutò ad andare avanti. Sebbene la visione fosse scomparsa e lei fosse tornata all'insulsaggine del mondo, ricordava ciò che aveva appreso. Espiazione e confessione, quelle potevano aspettare. In tono duro e prosaico disse: «Ritiro tutto». «Basta così, sedetevi. Mr. McBride, desiderate continuare, nonostante questo?» Il sovrintendente fissò la sua testimone come se fosse una macchina rotta e disse: «Siete ammattita? Non interrogatela, signore. Non ne avete più il diritto. Ma datemi il tempo di valutare, signore!» «Dovete ritirare l'accusa. Questo diventa uno scandalo!» urlò improvvisamente il Nawab Bahadur dal fondo dell'aula. «Non deve!» gridò Mrs. Tarton nel tumulto crescente. «Chiamate gli altri testimoni! Nessuno di noi è al sicuro!» Ronnie cercò di fermarla, lei gli diede un colpo esasperata e poi coprì di insulti Adela. Il sovrintendente mosse in aiuto dei suoi amici, dicendo con noncuranza al magistrato: «D'accordo, ritiro». Mr. Das si alzò, mezzo morto per lo sforzo. Aveva controllato il processo, appena controllato. Aveva dimostrato che un indiano è in grado di presiedere. A quelli che potevano udirlo disse: «L'imputato è assolto per non aver commesso il fatto. La deliberazione per le spese sarà presa in altra sede». E allora l'inconsistente scenografia del tribunale si sfasciò. Le grida di derisione e di rabbia salirono alle stelle, la gente urlava e malediceva, si baciavano a vicenda, piangevano a calde lacrime. Qua c'erano gli inglesi, protetti dai loro servi, là Aziz, svenuto tra le braccia di Hamidullah. Vittoria da questa parte, sconfitta dall'altra, l'antitesi fu assoluta per un solo istante. Poi la vita tornò alle sue complessità. A fatica tutti sfollarono dall'aula verso le loro varie faccende e poco dopo, sulla scena di quella fantasmagoria, non rimase altri che il meraviglioso Dio nudo. Ignaro che fosse accaduto qualcosa di insolito, continuava a tirare la corda del suo ventilatore, a fissare la pedana vuota e le sedie speciali rovesciate e a far ondeggiare ritmicamente le nuvole di polvere che venivano giù. Abode ao mara mane nera pavena abode ao mara mane nera pavena tara chai ra pitane aya saresi tara chai ra pitane Miss Quested aveva rinunciato alla propria gente. Allontanandosi da quelli, si trovò confusa in una folla di bottegai indiani e trascinata da loro verso l'uscita del pubblico. Il leggero, indescrivibile odore dei bazar la avvolse, più dolciastro che quello di uno slam di Londra, e tuttavia più inquietante. Un batuffolo di cotone impregnato di balsamo nell'orecchio di un vecchio, pezzetti di pan tra i suoi denti anneriti, ciprie odorose, unguenti, l'oriente profumato della tradizione, ma frammisto col sudore umano, come se un grande re si fosse trovato coinvolto nella lordura e non riuscisse a liberarsene, o come se il calore del sole avesse bollito e fritto tutte le glorie della terra in un unico guazzabuglio. Quelli non badavano a lei. Si scambiavano strette di mano al di sopra della sua spalla, gridavano attraverso la sua persona, perché quando l'indiano ignora i propri dominatori diventa genuinamente inconsapevole che esistano. Senza aver parte alcuna nell'universo da lei creato, ella fu sbattuta contro Mr. Fielding. «Che fate qui?» Sapendo che era suo nemico, lei uscì nel sole senza dir nulla. Lui le gridò dietro: «Dove andate, Miss Quested?» «Non lo so». «Ma non potete andarvene in giro così! Dov'è la macchina che vi ha portata?» «Andrò a piedi». «Ma è una pazzia! Si prevede che scoppierà una sommossa. La polizia è in sciopero. Nessuno sa cosa stia per succedere. Perché non restate con i vostri amici?» «Devo raggiungerli?» disse lei completamente apatica. Si sentiva svuotata, inutile. Non aveva più nessuna risorsa. «No, non potete. È troppo tardi. Come fate adesso a tornare sino all'uscita riservata? Venite con me da questa parte, presto. Vi farò salire nella mia carrozza». «Mr. Fielding! Mr. Fielding, non lasciatemi! gridò la voce rotta di Aziz. Torno subito. Da questa parte e non protestate. Mr. Fielding afferrò Miss Questide per un braccio. Scusate questi modi, ma in questo momento non valuto la situazione. Rimandatemi la carrozza domattina, a qualunque ora, per piacere. Ma dove posso andare? Dove vi pare. Che ne so io dei vostri programmi. Era al sicuro in una tranquilla strada laterale, ma senza cavalli, perché i servi, non prevedendo quella brusca conclusione del processo, li avevano presi per andarsene da un amico. Lei vi entrò obbediente. Mr. Fielding non poteva lasciarla perché la confusione aumentava e vi si coglieva qualche scintilla di fanatismo. La strada principale che attraversava i bazar era bloccata e gli inglesi stavano tornando al centro amministrativo per vie traverse. Furono sorpresi come bruchi. E facilmente potevano essere ammazzati. «Ma che diavolo avete fatto?» gridò improvvisamente lui. «Volevate giocare? Studiare la vita? O che altro?» «Signore, questi li ho destinati a voi, signore!» intervenne uno studente, correndo per la strada con una ghirlanda di gelsomini sul braccio. «No, non voglio commedie, andatevene!» «Signore, io sono un cavallo, saremo i vostri cavalli!» gridò un altro, sollevando i timoni della carrozza. «Presto, montate, signore, vi portiamo in corteo!» E, in parte affettuosi, in parte sfacciati, lo spinsero dentro. «Non so se questo vi garbi, ma ad ogni modo siete salva», osservò Fielding. La carrozza sobbalzava lungo il bazar principale, dove suscitò una certa impressione. Miss Questid era così odiata a Chandrapur che nessuno credeva alla sua ritrattazione, e corse voce che la divinità l'avesse folgorata nel mezzo delle sue bugie. Ma quando la videro seduta accanto all'eroico direttore, la applaudirono. Qualcuno la chiamò Mrs. Moore e la inghirlandarono per metterla alla pari con lui. Mezzo dei, mezzo burattini, con salsicce di fiori intorno al collo, i due furono tirati nella scia del vittorioso landò di Aziz. All'applauso da cui erano festeggiati si mescolava una certa irrisione. Sempre appiccicati tra di loro, gli inglesi. Questa la critica. E non era ingiustificata. Lo stesso Fielding la condivideva. E sapeva bene che, se ci fosse stato un malinteso e i suoi alleati avessero aggredito la ragazza, lui sarebbe stato costretto a morire per difenderla. Non voleva morire per lei. Voleva fare festa con Aziz. Dove stava andando il corteo? Da amici, da nemici, al bungalow di Aziz, al bungalow dell'intendente, all'ospedale Minto, dove il chirurgo civile mangiava la polvere e i pazienti, scambiati per detenuti, erano rimessi in libertà, a Delhi, a Simla. Gli studenti pensarono che stesse andando all'istituto governativo. Giunti ad un angolo, fecero svoltare la carrozza a destra, poi per vie traverse la portarono a rompicollo giù da un declivio e attraverso un cancello nella piantagione di manghi. E per quanto concerneva Fielding e Miss Questid, tutto fu pace e silenzio. Gli alberi erano pieni di foglie lucenti e di sottili frutti verdi. La cisterna sonnecchiava e di là da quella si innalzavano gli squisiti archi azzurri del padiglione. «Signore, noi andiamo a chiamare gli altri. Per le nostre braccia è un carico un po' pesante, signore», si sentì dire. Fielding portò la transfuga nel proprio ufficio e tentò di telefonare McBride. Ma non poté farlo. I fili erano stati tagliati. Tutti i suoi servi se l'erano svignata. Si trovò ancora una volta nell'impossibilità di lasciarla sola. Assegnò un paio di stanze, la rifornì di ghiaccio, bevande e biscotti. Le consigliò di sdraiarsi e si sdraiò anche lui. Non c'era nient'altro da fare. Era inquieto e contrariato, mentre sentiva allontanarsi i clamori del corteo.